Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Meno di 3 minuti per mostrare la decapitazione di una seconda vittima, un secondo messaggio all'America. I fondamentalisti dello Stato Islamico hanno diffuso un video con Steven Sotloff e il suo carnefice. Il giornalista freelance americano, 31 anni, era stato rapito in Siria nel 2013. Sotloff si rivolge ad Obama chiedendo perché debba essere lui a pagare con la vita il prezzo dell'interferenza in Iraq. Nel video della decapitazione dell'altro reporter americano, James Foley, Sotloff era stato indicato come prossima vittima se gli Stati Uniti non avessero messo fine ai raid nel nord dell'Iraq. I jihadisti minacciano ora di uccidere anche un ostaggio britannico. Questa mattina voglio fare un'analisi dell'episodio che in maniera più cruenta ha colpito i media di tutto il mondo. Basta vedere questa mattina le pagine di tutti i giornali, basta seguire i telegiornali, basta guardare la stampa internazionale, non c'è altro che la foto della decapitazione di Steven Sotloff. Il quadro è esattamente lo stesso di Foley, c'è il deserto, c'è il cielo azzurrissimo di sfondo, c'è un uomo inginocchiato occidentale con una tuta da prigioniero di Guantanamo, però perfetta, impeccabile, sembra appena uscita dalla lavanderia. C'è quello che ormai viene chiamato Johnny il Boia, è un personaggio molto ben definito, con una tuta da giudaista fighettissima, perfetta, cade benissimo, con un coltello perfetto in mano, sembra appena uscito da un'armeria di caccia e pesca, con una fondina in cuoio perfetta, che gli si appoggia mirabilmente sul fianco sinistro, in cui c'è una mitraglietta che sembra che sta esattamente ferma in quel posto, come se non pesasse. E esattamente è ripetuto lo stesso schema della decapitazione precedente. Questo può essere casuale, questo può essere semplicemente un messaggio di orrore di una fetta del mondo degenerata, arretrata, barbarica verso l'Occidente civilizzato. Beh, questa oggi ve la voglio analizzare assieme a una persona che sta qui con me in studio come un perfetto esempio di marketing. Questo è un brand pubblicitario. Non so esattamente cosa voglia dire, cosa voglia pubblicizzare, qual è esattamente il bersaglio a cui vuole arrivare, ma è esattamente una campagna pubblicitaria. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ballardini, esperto in marketing, comunicazione strategica, autore di un libro appena uscito, leader come Francesco, perché il Papa è un genio del marketing. Il Papa non se lo calcola più nessuno in questi giorni. Beh, insomma, l'alternanza fra bene e male in questo momento pende dalla parte del male. Il male vince, noi ci siamo sentiti... Ma è un fascino anche. Un mese e mezzo fa parlavamo del Papa come del brand più potente in questo momento, ma oggi il brand dello scannatore islamico supera il Papa in assoluto. Il Papa parla, dice, dichiara, appena detto oggi che non bisogna darsi abbracci troppo intensi nello scambio del segno della pace, ma nessuno ne fa notizia. Notizia invece è diventata questa. Allora, una tua analisi da pubblicitario innanzitutto di questi due video, che poi esattamente sembra la stessa campagna con poche varianti. Purtroppo è una declinazione di campagna, e temo che continuerà, è stato già annunciato. Devo dire che si sono evoluti rispetto ai primi filmati che si vedevano, parlo di quelli del mio buon amico Enzo Baldoni e anche i successivi episodi di rapimento e ammazzamento. Tu avevi fatto già un'analisi al tempo del video famoso di Enzo Baldoni, ricordiamo il tuo collega pubblicitario, giornalista, esperto in fumetti, che il cui video fu, diciamo, uno dei primi segnali di qualcosa si muoveva su un piano diverso da quello consueto. Un video che tu hai analizzato, avevi detto, ma era un layout perfetto per contenere il logo, sì. Anche il video del messaggio di Baldoni sembrava costruito come campagna pubblicitaria. Sì, assolutamente, innanzitutto l'impaginazione, il modo di gestire il testimonial, il fatto che fosse molto probabilmente falso, e nasce dal fatto che c'è a un certo punto un'alzata di sopracciglio di Enzo, che hanno notato tutti gli amici, cioè come se lui si stupisse di quello che gli stavano facendo leggere, e non sembrava per niente intimorito, e questa è una cosa notevole perché sembrava in un altro ambiente. Facendo analizzare il video di Al Jazeera, la cassetta originale, in Inghilterra abbiamo riscontrato che era un abile montaggio fatto con una centralina di post-produzione di ultima generazione. Ora, chi è che poteva avere una centralina di post-produzione di ultima generazione in un posto dove c'era solo la resistenza, le macerie e dall'altra parte il comando americano? Punto di domanda. Ecco, sono passati 10 anni più o meno da quel video. Sì, perché era il 2004 se non sbaglio, quindi sono passati esattamente 10 anni. Vediamo l'evoluzione comunque della campagna di comunicazione. Tu hai presente le foto, hai presente i video, hai visto esattamente. Vediamo di rinquadrare e fare la stessa analisi con questi video. C'è un'evoluzione che è data, non tanto, insomma, l'oggetto è sempre propaganda basata su qualcosa che a noi fa orrore, ma ragazzi, si tratta sempre di esecuzioni, cioè non esiste un bon ton nell'esecuzione. Se gli avessero sparato in testa ci saremmo scandalizzati di meno. Questa è una cosa che fa leva sulle nostre sulle nostre differenze culturali ed è mirata ad hoc a colpire questo. In secondo luogo, l'evoluzione è data dal fatto che il boia parla in un perfetto accento, con un perfetto accento britannico, che serve a comunicare fondamentalmente che loro stanno già fra noi. Ecco, questo è il messaggio vero, che dobbiamo avere paura. Infatti ho visto analisi di colleghi sul fatto cruento dello scannamento con il coltello, una cosa lontana. Io non dimentico che anche alle nostre latitudini cose del genere si facevano davanti a Ponte Sant'Angelo, ma 2 secoli fa la gente veniva tagliata, ambuzzata, messa a pezzi, e certo, nessuno si scandava, anzi la gente guardava e applaudiva. E diciamo che c'è una sorta di contaminazione, l'idea del fusion, ci mettono un po' di tutto perché? Ci mettono un po' di tutto perché loro sanno come far leva, mischiano elementi occidentali a elementi culturali diversi, esattamente quelli che noi di cui abbiamo paura, terrore, cioè il perfido saracino che è dal medioevo nostro, che è il nostro nemico politico numero uno, la spietatezza, il fatto di mettere in giro degli spot perfettamente confezionati, è perfetto anche il canale, cioè gli spot della vecchia pubblicità, quella a cui appartengo, erano fatti apposta per non ricevere controargomentazioni da chi riceveva il messaggio, quindi nessuno poteva obiettare nulla, poteva soltanto subirlo, e questo è il massimo degli orrori. E in questo caso è esattamente la stessa cosa. 800240024, stiamo facendo un'analisi iconografica per intuire, cercare di capire, spiegarsi cosa ci sia dietro dal punto di vista della comunicazione a questi messaggi. Ci fanno orrore, ci fanno inorridire, ci sembra il peggio del peggio del peggio, giustamente, è giusto che questa sia la nostra impressione, perché questo vogliono trasmettere. Agostino, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo solo dire una cosa. Sarebbe opportuno non parlarne di questi signori qua, perché si oltre all'orrore che commettono, non bisognerebbe dare spazio e tagliarli fuori. Cioè fare finta che non è accaduto. Come? Fare finta che non è accaduto. No, non è vero, perché non è far finta che non è accaduto, perché l'accaduto e ne stanno combinando di tutti i colori, ma loro vogliono la pubblicità. Vogliono rendersi famosi e noti, e noi dovremmo tagliarli fuori, non parlarne di loro. Io sarei di questo avviso, naturalmente. Cioè io questa mattina dovrei far finta che non è accaduto questa cosa qua, non ne cercare. Ne hanno parlato i telegiornali, una notizia così fugace, tanto per dare informazioni che esistono questi delinquenti, e poi punto e basta. Perché loro cercano proprio questo, questi qua stanno cercando di distruggere. Io mi piace dare spazio a tutte le opinioni, sì. Esattamente antitetico a quello che mi sono sempre posto nella vita come idea, quella di cercare di capire, leggere segnali nascosti, decodificare e condividere quelle che sono le mie riflessioni. Comunque, se lei pensa questo, pensa che debba esistere una sorta di censura, anche questo può essere un punto di vista. Non sono totalmente, assolutamente d'accordo. Bruno Barlardini, il signore però è stato colpito, lui dice fate pubblicità, mandate uno spot, come quelli che dicono ah, io la televisione non la guardo mai, mai, poi comunque sanno tutto quello che accade. Perché ma noi non possiamo evitare di essere colpiti dai media, perché siamo immersi in un ambiente mediatico che ci circonda e comunque l'informazione arriva. Il problema è riuscire a avere anche la possibilità di verificare le fonti di questa informazione, perché non è ancora del tutto chiaro chi è che ha buttato giù i grattacieli all'11 settembre, non è affatto chiaro chi ha ucciso veramente Enzo. Questo è un punto di domanda. Io osservo con molta attenzione negli anni, sono 10 anni ma non mi sono mai fermato, il comportamento dei servizi segreti, sia italiani che sono asserviti a quelli americani, sia quelli americani. Ho fatto anche un articolo in cui davo un esempio di come i nostri servizi all'epoca del rapimento di Enzo fossero completamente succubi e aspettassero l'imbeccata dal comando americano per poter far uscire sulle agenzie la notiziola, e tranne poi contraddirsi di nuovo. Quindi diciamo noi, chi è la fonte? Ecco, tu fai un parallelismo fra una nota campagna di due detersivi che si facciano la concorrenza. Sì, allora voglio soltanto ricordare a tutti, bisogna andare cauti, rimanere freddi, perché il capo dell'esercito islamico in Iraq, quello che ha rapito e ammazzato Enzo Baldoni, è stato successivamente assoldato dagli americani per combattere Al-Qaeda. E di Al-Qaeda non sappiamo assolutamente nulla. È come se avessero creato due pupazzi che si fanno la guerra, ma sono tutti e due finti. L'ipotesi orribile è quella che sia stata adottata la stessa strategia americana di Procter & Gamble, quella di Dash e Ariel, per cui due prodotti si facevano la concorrenza, ma nessuno sapeva che erano appartenenti alla stessa marca. Walter, buongiorno. Mi scrive un ascoltatore: perché parlate di decapitazione e non di sgozzamento? Differenza non è minima. Parlo di decapitazione perché alla fine gli staccano la testa e gliela mettono appoggiata sul dorso, che è la prova inequivocabile, come sa ogni killer, che una persona è stata ammazzata. Walter, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma ho sentito la vostra analisi, condivido abbastanza. Sulla questione fondamentale, che la mia paura non è che il loro scopo sia quello di intimorire l'Occidente o che, secondo me il loro scopo potrebbe essere quello di trovare delle frange fanatiche in Occidente parallele alle loro e in contrasto con loro, che a queste frange fanatiche in Occidente facciano le stesse nefandenze loro per alzare il livello del conflitto, diciamo. Questa secondo me può essere una paura. Io continuo sulla linea che ci siamo prefissi all'inizio e continuo a fare le domande a Ballardini prendendo spunto a quello che dice lei, ma in fondo loro cercano un pubblico, hanno un target, non è che vogliono portare le persone a sgozzare la gente per strada, secondo me almeno in questa maniera, anche perché sarebbe poco razionale da un punto di vista proprio del combattimento, ci vuole tempo. Questa è una azione dimostrativa per arrivare a far capire qualcosa. Qual è il loro target a questo punto, Bruno? L'obiettivo intanto è, tecnicamente, io continuo a insistere, in molti casi è quello di eliminare fisicamente degli attori scomodi che sono sempre regolarmente dei giornalisti. Cioè è un modo di fare una guerra mediatica in modo brutale, perché un canale di comunicazione elimina fisicamente un altro canale di comunicazione, e sono tutti giornalisti inviati lì a cercare di capire la verità. È curioso questo fatto, perché se fossero veri islamici, dico io, avrebbero tutto l'interesse a parlare con loro e fare in modo che le vere notizie arrivassero fino in Occidente. Questo è un punto interessante. Uccidono a caso dei freelance, giornalisti che non hanno solamente nessun grosso editore dietro che condiziona, quindi sarebbero le persone più adatte a dare una visione realistica di quello, certo, che sta accadendo. Tagliandogli la gola vuol dire gli chiudono la bocca, certo, l'istante prima che possono dire qualcosa. Melog, cronache meridiane. Stesso accento, stesso fisico, stesso coltello. Potrebbe essere sempre John o un altro dei 500 britannici che si sono uniti alle fila dell'ISIS. Di certo ha la stessa richiesta, fermare i raid statunitensi in Iraq, e usa la stessa minaccia, siamo pronti a uccidere ancora. Pago il prezzo dei bombardamenti americani in Iraq, sono le ultime parole di Steven Sotrov, 31enne giornalista americano. Vittima dell'ISIS come prima di lui, James Foley, tutto arancione, in ginocchio, nel deserto, decapitato. E il coltello ora è già puntato contro David Haines, secondo le prime ricostruzioni, ex militare britannico addetto alla sicurezza di organizzazioni non governative, rapito in Siria nel 2013. Sono tornato e sono tornato a causa della tua politica estera arrogante, dice il suo assassino rivolto a Barack Obama, ma ampliando le minacce di al-Baghdadi, di cui è praticamente portavoce in una strategia di comunicazione e reclutamento curata. 800240024, stiamo analizzando uno spot pubblicitario per cercare di capire quale sia il bersaglio, quali siano le strategie che stanno dietro questo spot. Continuo a guardare con attenzione l'immagine di quello che ormai è chiamato Johnny il Boia, quindi è già un personaggio, come se fosse Mastro Lindo, già in seno alla sua denominazione. Osservate un particolare, adesso è venuto in mente, lui impugna il coltello con la mano sinistra e sgozza con la mano sinistra, quindi è mancino. Quella meravigliosa mitraglietta, sembra appena uscita dal negozio, sembra quasi presa dall'attrezzeria di un set cinematografico, fondina in cuoio lucidissima, per niente rovinata, se la porta sotto l'ascella sinistra, quindi per impugnarla usare la mano destra. Quindi è mancino o mette la mitraglietta con quella bellissima fondina che sembra proprio da fighetto a favore di inquadratura perché possa essere vista? La mette in vista a favore di camera. Se fosse mancino starebbe dall'altra parte. Certamente. Non potrebbe estrarla. Quindi è ben studiato come regia. E naturalmente, come si diceva poc'anzi mentre chiacchieravamo, qui ci sono tre angoli di ripresa, quindi non lesinano mezzi, ci sono tre macchine da presa, lusso. C'è un primo piano, c'è un campo largo, figura è montata anche bene. La Gli cosa. Abiti sono stirati e ora uno potrebbe dire in realtà si mette in ordine come si stesse svolgendo un rito antico, perché nell'Islam comunque lo sgozzamento ma questo è un set dove si gira ma anche un set, nello stesso tempo è un set. Giovanni, buongiorno. Guardi, io ritenevo, sono d'accordo con la buona idea espressa dall'ultimo intervenuto, che anche lei ha sottolineato come tale, però non sono del tutto d'accordo con lei, con quello che ha detto a un precedente intervento, che era il penultimo mi pare, che esprimeva l'idea che non si debba dare pubblicità a queste cose, a questi atti feroci e barbarici e sommamente stupidi dal punto di vista politico. Io credo che effettivamente in una guerra non si debba mai fare quello che il nemico si aspetta che noi facciamo per reazione a ciò che lui fa. Dobbiamo fare esattamente il contrario. Ora non c'è dubbio che questi farabutti delinquenti sanguinari vogliono avere la massima pubblicità e bisogna dargliela assolutamente no, e questo è il punto. Sì, però Giovanni, il mondo è un po' cambiato. Lei immagina. Sì, attenda un momento, vorrei dire un'altra cosa. Io propongo anche, tra l'altro, come idea operativa anche, suggeriamo a Obama di fare anche una bella cosa che può fare, cospargere tutto l'Iraq di manifestini molto ben studiati su questa situazione e la propaganda fatta bene, e poi mandare anche dei per disprezzare... Come d'annunzio del volo su Vienna, ma oggi è un po' certo, cambiato. Ma certo, non cambia nulla, è stata efficace, è molto efficace. Poi usare la tecnica dei Canadair che spruzzano acqua per spegnere incendi e cospargere sterco su dove abitano costoro. Vabbè, perché qui vanno presi in giro, vanno messi in evidenza la loro impotenza. Ma lei c'è cascato con tutti e due i piedi. A pie pari, cioè lei si è fatto coinvolgere, bisogna rimanere freddi di fronte a queste cose. Ma bisogna anche scaldarsi, dire che cosa bisogna fare, perché bisogna farlo subito. Andiamo a bombardare. Guardi Giovanni, volevo solo far capire che il mondo è leggermente cambiato. Ammesso che sia possibile fare una sorta di accordo di cartello fra tutti gli editori, non ne parliamo. Dopo 30 secondi questi film erano già in rete, li vedevano tutti, il mondo ne era comunque contaminato, quindi con secondo internet. Me è giusto il lavoro che stiamo facendo, cercare di capire, di spiegare nei particolari, uscire un attimo dall'afflato emotivo, ma non perché siamo cinici, semplicemente vogliamo razionalmente studiare il problema. Gabriele. Salve, io volevo rimanere su questo argomento, però io non ho la verità in tasca, quindi non so se sia giusto. Però è interessante perché vedo che il lavoro che fa lei ci può aiutare. Sì, io faccio l'operatore cinematografico, lavoro nel settore pubblicitario da tantissimi anni. Un collega. Sì, più o meno sì, diciamo. Visto che stavate analizzando proprio la cosa dal punto di vista pubblicitario, mi ero posto questa domanda. Io ho lo spot più bello del mondo, ma se non ho i mezzi su cui trasmetterlo, il mio spot non lo vede nessuno, certo. Non lo compra nessuno. Quindi mi chiedo, è possibile fare questo? È un appunto di domanda. Cioè, si possono bloccare anche canali internet? Voi sapete benissimo che dalla Cina entra o esce ben poca roba rispetto a quella di cui usufruiamo noi. Quindi si può bloccare anche il canale internet? Bloccare? No. non si può. No, impossibile. No. Di non fronte... è possibile? No. No, tecnicamente non è possibile. No, oggi è la forza di un messaggio, se è tale da scuotere il muro di gomma dei grandi media, comunque passa. Si può fare un server da qualunque parte, perfino in Alaska, e continuare a trasmettere lo stesso. Guardi, non, sì, però non è se possibile. Nessuno lo ripete, cioè, se i grandi network non lo ripetono, se le grandi voci, perché hanno ancora voci in capitolo le televisioni, i network nazionali, non è che internet abbia surclassato definitivamente le televisioni. Secondo me un po' meno risalto gli si può dare, mi chiedo, perché io ribadisco, posso fare il più bello spot del mondo, e ne ho fatti tanti nella mia vita, dei bellissimi spot, che però non sono andati in onda per mancanza di fondi, per mancanza di campagne pubblicitarie adeguate, però nessuno li ha visti. Vabbè, perché è anche limitato, diciamo, probabilmente. Ma questo è in televisione, internet non funziona così, è impossibile arrestarlo. Però Bruno, io comincio a fare un'analisi, perché le reazioni del pubblico in realtà sono significative di un sentire generale, perché questo è un campione molto attento e molto interessante. Io vedo che prevale l'idea di chiudiamo il canale di comunicazione come se la cosa non fosse accaduta. Si diceva così anche all'epoca delle Brigate Rosse, cioè non diamo gli spazio sulla stampa perché se no li facciamo pubblicità. Ma poi voglio dire, la gente ha bisogno di essere informata lo stesso. Il problema è, ma perché continuiamo a bere tutto quello che passa sui giornali? Non siamo capaci di fare dei collegamenti, confrontare i dati, cercare di fare un po' logica nelle nostre connessioni. Io voglio rispondere con un esempio che dovrebbe mettere un attimo dei dubbi. All'epoca, ripeto, del rapimento di Enzo Baldoni, era stato messo a capo dell'ambasciata americana in Iraq un signore che si chiama John Negroponte, famoso fratello dell'altro Negroponte, quello di Being Digital, quello della grande del Massachusetts Institute of Technology. Uomo della CIA. Molto inserito nell'apparato, anche tutti e due fratelli, uno da un punto di vista tecnologico, l'altro dal punto di vista politico, perché l'uomo della CIA, John Negroponte, era già famoso per aver organizzato delle finte bande di terroristi in Honduras per rapire i dissidenti e ammazzarli. E fu mandato a fare l'ambasciatore in Iraq. Era famoso come troubleshooter, cioè risolvitore di problemi, e tutto lascia pensare che lui abbia fatto la stessa cosa in Iraq con delle finte bande di islamici per rapire e ammazzare tutti quelli che non stavano bene. Ad esempio, sembra un personaggio di Tarantino. Vuol dire, ripeto, nonostante i depistaggi dei nostri servizi e di tutti i loro collaboratori, Enzo aveva come obiettivo andare a intervistare Muqtada al-Sadr, il capo della resistenza in Iraq. Allora, che cosa vuol dire questo? Che gli americani non volevano che uscissero le parole di Muqtada. Perché nessun altro aveva interesse che lui parlasse. E si dice la famosa lettera indirizzata al Papa che di ritorno Enzo doveva portare con sé, doveva essere fatta sparire. E con essa anche il suo portatore. Questo è un po' il pensiero di Massimo. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno. Io avevo un quesito di questo genere, magari strano, ma come mai, cioè, che sia tutto vero, tutto reale? Perché il dubbio è questo, con le tecnologie che ci sono oggi, è possibile andare a trovare un limone dall'altra parte del mondo, no? Sì. Io mi sento di dire, per il poco che posso capirci, tristemente e miseramente la testa gli hanno tagliata davvero, inutile illudersi su questo, perché si dice non hanno fatto vedere il fotogramma in cui la stacca e via dicendo, testa gli hanno tagliata, era lì, non credo. Ci sono delle decapitazioni o degli sgozzamenti veri, poi all'epoca, io parlo di 10 anni fa, c'erano anche quelli finti dove tenevano in mano un cadavere, io me ne sono visti tanti purtroppo, sì, per certo. Capirci qualcosa, in alcuni casi si vedeva addirittura il battiscopa uguale a quello del carcere di Abu Ghraib, che era il comando americano. Allora, nessuno della stampa italiana ha avuto il coraggio di dire queste cose. Voglio vedere se qualcuno tornerà sull'argomento, si ripeteranno delle analisi, ma molti sgozzamenti erano finti. L'ho visto con dei medici legali, quelli alla CSI, hanno detto, ma questo è ridicolo, non esce neanche uno zampillo di sangue, questo era un cadavere. È chiaro? Il dubbio è questo, cioè che non siano... che non potessero essere anche delle manipolazioni. In alcuni casi, in altri purtroppo. Allora, la sigla ci abbiamo finito. L'argomento era interessante, sicuramente ci ritorneremo, perché da quanto viene annunciato non è un argomento che si chiude qua. Perché sia stato fatto, come sia stato fatto, in questo momento non è possibile capirlo con chiarezza, certezza di fonti, ma abbiamo dato qualche elemento in più per capire, per comprendere, per interpretare le immagini. Grazie Bruno. Grazie a voi.